Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Nel mio viaggiare senza meta, naturalmente, mi capita, mi sarà capitato, di rincontrare persone con le quali ho già parlato, già le ho viste. La maggior parte delle volte sono persone che io mi sono dimenticato e magari le ripropongo in buona fede, pensando di averle viste per la prima volta. Non tutti gli esseri umani mi rimangono impressi nella memoria alla stessa maniera, ma perché è logico, non tutti gli esseri umani sono uguali. Chi sicuramente mi ricordo, e mi ricordo ogni particolare di quello che mi ha detto, è la ragazza che molte volte avete imparato a conoscere, che viaggia sempre verso una sorta di transumanza amorosa, o un fidanzato con cui si è lasciata, o l'inizio di una storia d'amore che pensa che sarà quella della sua vita, o, come spesso accade, è in fuga da una storia d'amore tracollata. Questa volta mi permette di dire il suo nome. Si chiama Margherita Schirmacher. Perché vuole che io la nomini? È la prima volta che nomino un personaggio che incontro, perché spera che anche questo suo parlare di straforo con un viaggiatore indefesso possa corroborare la sua ricerca folle e disperata del grande amore della sua vita. Quindi, se l'ascoltate e sentite il suo straziante grido di bisogno d'amore, beh, magari, se avete buone intenzioni, siete dei bravi ragazzi, fatevi avanti. No, veramente, perché stai in treno di nuovo? È tanto tempo che non ti vedo, una vita. Sono un sacco di mesi che non viaggio in realtà, però sto tornando adesso da un viaggio di un mese. E con tutti questi bagagli sempre. Vabbè, non sono così tanti. C'è questa sacca della morte col cordino che mi si continua a rompere. Quindi non ti cambi mai, praticamente. In un mese questa poca roba ti sei cambiata poco. Allora, innanzitutto mi sono portata il sapone di Marsiglia, ma poi è perché ho viaggiato prima in camper e poi in una barca. Perché voi, ragazze per bene, dovete portare il sapone di Marsiglia, non normale bagno schiuma profumato alla calendula che si trova in ogni supermercato. Sapone di Marsiglia, cos'è, una cosa equa, naturale, e da questo sapore della mamma, della nonna. Il sapone di Marsiglia perché si può lavare sia i panni che il tutto. Ci sciacqui sia le mutande che quello che c'è sotto. Forse anche i piatti, sì, non so. No, i piatti no, è un'altra cosa. È il Marsiglia liquido. Il sapone, la tavoletta di sapone di Marsiglia va bene per il bucato a mano e si usava sempre in tutti i campeggi, ma lavarcisi addosso sembra non lo so, sei di bucato, sai, cioè fra te e un bucato non c'è nessuna differenza. Ma no, io adoro sapere di bucato. Vabbè, ma guarda che sei sicuro che piaccia alla gente se una donna sa di bucato? Sì, se uno ha la passione della lavandaia, sì, però non lo so. Vabbè, sapone di Marsiglia, cos'altro ha in questa sacchetta? Adesso cominciamo con l'analisi del bagaglio. L'analisi del bagaglio? Sì. Allora, nell'analisi del bagaglio c'è questo questo specie di enorme beauty case che contiene tutti i segreti della mia bellezza. Ragazzi, cioè, quando ci ha messo la saponetta di Marsiglia non c'entra altro. No, no, c'è, c'entra la brusca per pulire lo sporco insistente, fine, basta. C'è dell'altro. Poi c'è la sacchetta delle pietre che mi porto dietro, no, anche pietre in camper. Pietre preziose. Le pietre per dormire, tipo l'ametista o altre. No, ma cosa? No, quest'altra stronzata voglio capirla. Cosa delle pietre per dormire? Cioè, non c'è il cuscino per dormire? No, c'è il cuscino l'ho lasciato, il cuscino me l'ero portato in camper, ma poi in barca non cosa l'ho portato. Cosa sono le pietre per dormire? Tipo sono delle pietre che ti metti nel letto che favoriscono la... Chi lo dice questo, scusa? È l'antica tradizione. Ma di che? C'è una cosa sciamanica questa. Esatto. E tu che pietre usi per dormire? Adesso l'ametista. Cioè, porta anche una sfiga l'ametista, ma ricordo che mia nonna non voleva niente con le ametiste, portava una sfiga, cano viola. Allora forse è per questo. Certo, la pietra più sfigata. L'ametista porta sfiga e viola. La gente, regalare un ametista vuol dire un regalo di sfiga. Come il coltello? No, il coltello fa bene, basta che gli dai un soldino in cambio. Ecco. Si può regalare, tu dai in cambio 205 centesimi e è fatto, deve essere acquistato simbolicamente. Qui c'è sto sacchetto di ametista, ma dove sacchetto si mettono? Sacchetto di ametista? Sotto cuscino? Sparse. Te le perdi nel letto, la notte ci giri, è come avere quando vai a letto che c'è piedi sabbiati. No, la metto in un angolino e poi so che la recupero. E comunque, magari, che ne so, pietre... Si può anche disperdere all'interno del corpo umano se non stai attenta, scusa. Ma di questo non fa niente. No, è pericoloso, poi che fai? Come la rifai l'ametista? Non penso di correre il rischio. No, comunque, vabbè. Pietre, poi va niente, ho quattro vestiti. Quante sono le ametiste da dormire, scusa, no, per capire? Due pietrine? Sì. Cioè senza quelle, se non ce l'hai, già sai che non dormi. Esatto. E da quant'è che usi questo sistema? Perché questa è una novità. Un anno. Da un anno? Ma chi te l'ha detto? L'hai letto, l'hai visto? Me l'ha data un'amica. E lei se la metteva lei prima? Sì. Quindi si può passare la pietra da sonno, sì, da amica. Sì. Ma non ci avete nella vita veramente, ma non lo so, andare da un medico magari se c'è un problema di insonnia, no? Perché ti tiri i capelli in maniera nervosa? Perché è una malattia, lo sai. Mi dispiace essere partita, cioè star tornando. Puoi ripartire, chi te lo impedisce? Allora, ma finiamo col bagaglio, pietre per dormire, poi vediamo, sapone di Marsiglia. Già, guarda, è una carta d'identità, guarda, se anche la gente non ti vede ti identifica. Poi? Cordini. Che servono? Questi sono i cordini perché mi si era rotta la sacca e il comandante della barca me l'ha riparata con questi cordini. Quindi questo è importante, è un tratto distintivo importante del mio bagaglio, il cordino. Cioè te l'ha cucita a mano lo skipper dicendo... Esatto. Poi, con lo stesso ago con cui cuce le vele la serata della tempesta. Esattamente. Te l'ha ricucita. E col quale io mi toglievo i ricci da sotto il piede, ago multifunzionale. Poi c'è questo pareo che ho trovato nel fondo del mare e che ho fatto recuperare, sempre dato dal comandante. Magari al sudario di un cadavere, dai. Non c'era nessun cadavere dentro. Un pareo? Era un pareo bellissimo. Sott'acqua? Sott'acqua. E come fai? Non galleggia il pareo? No, sì, sì. Ah, si è impregnato, era sul fondale. E l'ho... E quanti metri era sotto? E penso 4. A 4 metri? Da quanto tempo stava lì? Non lo so, non ho fatto l'analisi. Puzzava di pesce, cioè, l'abbiamo dovuto lasciare un sacco fuori durante l'anno. Poi vende quei maniaci che comprano le biancherie delle signore. Quello già puzzava, gli urbandari. Era perfetto. E si è spuzzato il pareo? Infatti adesso... Quello che è lavato col sapone Marsiglia. Questo l'abbiamo lavato, l'abbiamo lasciato fuori per giorni. Un pareo costerà 10 euro, quelli che le vendono nella spiaggia. Ma vuoi mettere un pareo che trovi sott'acqua, che vai a riprendere? Ma a me mi inquieta, veramente mi sembra il sudario di un funerale del mare, quelli che li buttano dalle barche. Non so, ma sembra una cosa veramente sinistra, non lo so. Vabbè, e sto pareo, ma c'era quelli soliti, però quelli che si vendono sulla spiaggia. No, non vedi, questo è speciale. We'll be right back. informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Poi vediamo che altro c'hai. Poi computer, diario. Beh, queste sono due cose normali. Grande classico. E che cos'altro c'ho? Beh, c'hai qualche vestituccio così. Qualche vestituccio, alimentatori. Per il computer. Per il computer. Trasformatore non ce l'ho. Vabbè, basta con questo. Comunque hai fatto. Cosa hai fatto? Questo mese dove sei stata? Allora, prima sono stata il 4, quando hanno riaperto i confini, sono partita con un camper. E sono fatto 10 giorni in camper. Da sola? Sì. Guidavi te? Sì. Una ragazza in camper? Una ragazza in camper. E sono... Cioè dormivi, mangiavi, stai, c'è tutto lì? Sì. Vita sociale? Zero. Ha piovuto tutto il tempo. Quindi stavo sempre chiusa dentro al camper a mangiare... Ma quelli grandi o quelli piccolini? Lenticchie. Quelli grandi? Da sola? Lenticchie? Perché lenticchie? Scatolame, insomma. Che tristezza, scusa, ma non potevi fermarti a mangiare? Cioè, ancora, non lo so, portarti cose un pochino più appetibili. Con le scatolette? È un po' di scatolette, ho mangiato tante scatolette, sì. A me, ma... La roba fresca si trova in giro ancora. Sì, però non sempre riuscivo ad arrivare nei posti quando c'era qualcosa di aperto, non sempre riuscivo ad andare a comprare. Ma non c'avevi la spesa. Il frigo non ce l'avevi nel campo? Il frigo sì, ce l'avevo. E potevi mettere su gelati, no? Ma no, non è il frigo, non è che puoi mettere. Ah, non c'avevi il freezer? No, è piccolino. Ci metti da bere soltanto. Esatto. Il frigo, vabbè, c'è nel frigo frutta, si teneva. La frutta, la verdura, queste cose si usano. No, qualcosa l'ho. No, perché le scatole con le lenticchie è una cosa da vacanza massacro anni 70. Però vecchia. Sono stati dei bei momenti quelli. Quella della lenticchia da sola di notte. Te la scaldavi col fornelletto a spirito? No, il segreto è nemmeno scaldare. Non scaldarla, cioè, nemmeno, sì. Ma no, però sono immerse nell'acqua, quindi è un acque rouge, un liquame con delle lenticchie mezze crude perché vanno un po' sbollentite. Però c'aveva il suo fascino. Ma meglio comprarti un filone di pane, un salame, te lo fettavi e te lo mangiavi, no? Abbiamo fatto anche quello. Abbiamo, quindi no, non abbiamo, no, plurale maiestatis. Ero sempre da sola. Non eri sola, dai. Ero sempre da sola, giuro. Non è mai entrato nessun altro, nessuno ha violato la privacy del tuo camper. Manco per venire a vedere che facevi la mattina. Sì, hanno tentato di violare la privacy del camper. Ma chi erano? Sconosciuti? Sì, vabbè, poi comunque ho interagito girando appunto 10 giorni, non ho dormito spesso. Ma come ti presentavi, la ragazza del camper? La ragazza mi presentavo, dicevo ciao, sono Margherita, sto facendo un reportage. Scusa, esperimento sociale? Sto facendo un esperimento sociale. E in cosa consiste l'esperimento sociale? Ma l'esperimento sociale è stato andare a trovare tutte le persone che durante il lockdown avevo incontrato o conosciuto sul web. Quindi quella era stata... Ah, vedere, diciamo, conoscere carnalmente i tuoi amici virtuali. Sì. In tutta Italia, naturalmente, sì. non hai spaesato fuori. No, in Italia. Quindi vedere anche posti che loro riprendevano nelle stories, vedere, insomma, andarle ad incontrare. E qual era, diciamo, l'angolo di distanza fra quello che rappresentavano di loro stessi e quello che poi erano veramente? Nella media? Nella media erano le stesse persone. Erano più simpatici dal vivo. Dietro c'era la tua annosa, interminabile e infaticabile ricerca di un marito, un fidanzato, penso, no? O la fuga. Sì, la fuga da che? Da un fidanzato. Ah, perché? No, io sono rimasto un po' indietro. Dunque c'era il signore con l'anello di legno. E quello era nel 2016. Poi negli altri ragazzi, poi musicista. Ma tutti musicisti. Tutti musicisti. E l'ultimo da cui sei scappata? E l'ultimo non si dice. Era quello che dicevi, l'uomo della mia vita, lo sposerò, finalmente innamorata, venivi a no, trovarmi. No, quello, oddio, non me lo ricordo. Finalmente, sono felice, l'uomo della mia vita, mi dà tutto, mi appaga spiritualmente, carnalmente, non ho mai trovato una persona del genere e poi scappi. Sì. Ma perché? A un certo punto hai detto basta, non lo voglio più vedere. Non è andata. E non bastava dirgli ciao, arrivederci. Cioè, temevi l'insistere compulsivo dell'abbandonato. Ah, un viaggio aiuta sempre a dimenticare. Quindi un viaggio dell'oblio. Un viaggio dell'oblio e poi in realtà ho conosciuto anche un sacco di altre persone. Cioè tu dovevi sovrascrivere un'immagine che ha fatto sanguinare la tua giovane anima, le tue tenere carni, e quindi hai detto vado in giro a fare un viaggio. Esatto. E hai preso il camper e sei andata in giro. Esatto. Però ha piovuto sempre. È passato le giornate dentro il camper a mangiare le scatolette tristissime. Ma sono stata molto bene in realtà. Sì, raccontalo a qualcun altro, dai, su. Fino hai dato un'immagine di cioè un equivale alla tua vita a quella di una povera derelitta che non ha, che ne so, che ha giocato tutti i suoi averi al tavolo del casinò, è rimasta solo con un camper e vive di stenti e dell'elemosina. Questo assomiglia, scusa, qual è la differenza? La libertà. Ma perché a casa tua non eri libera? Chi? No. Chi ti soprattutto dopo 4 mesi chiusa dentro casa. Vabbè, come il resto, come tutto il mondo. Ok, detto questo, non eri libera di andartene dove te pareva. Perché questa, diciamo, questa circostanza? No, mi interessa come esperimento sociale. Che cosa avrei potuto fare per sentirmi libera se non prendere un camper e andare dove volevo? Ah, qui il camper come fosse una bicicletta, una moto, era un mezzo qualsiasi. No, era una casa con 4 ruote. Ah, ecco. Perché altrimenti non la avrei. La sindrome della tartaruga che avevi, esatto, anche una casa lì. Altrimenti non avrei saputo dove dormire, non avrei potuto. Quindi ti dava l'idea anche un po' di vita brada, vita, esatto, nomade, ti sentivi un po' zingara. Esatto. Quindi, Una volta ho dormito in un deposito di rotoballe di Fieno. Sì, quelle, fa bene, cioè, poi c'è anche una terapia, la gente paga per andare nelle spa e si infila nel Fieno. Io ci ho dormito accanto. Sei buttata dentro la rotoballa? Mi sono buttata dentro la rotoballa, ho conosciuto... Un fienile, un fienista? La signora proprietaria del fienile che aveva... Al quale avevano appena ucciso un gallo e stava cercando i resti del gallo per poterlo seppellire. Pensa che incontri che ho fatto. No, fammi capire, il gallo aveva preso una volpe e una faina, quindi trova due penne, trova per infatti cercava almeno una penna da poter seppellire, per dare cristiana sepoltura, esatto, al gallo. Esatto, quello è uno dei luoghi. Ma perché lei con le galline che ci faceva le teneva così come fosse le uova, infatti poi mi ha dato le uova. Ecco. Quando sono partita, vedi che comunque poi sono riuscita a mangiare. Mangiati l'ovetto, ti fa bene, bambina. Abbiamo fatto un sacco di scambi. Una volta a Popoli ho scambiato una bottiglia di vino per un allaccio alla 220 da un signore. Allora tu avevi il vino, ci tiro il vino e mi fai attaccare la corrente. Sì. Beh, lui è convenuto perché fosse sì, anche un vino da 5 euro, la voglia allacciare, ci stai attaccata 6 mesi, capito? Per quello che consumavi te. Poi che altri scambi? Poi altri scambi, ho scambiato un sottopiatto sempre per poter dormire in un giardino di una persona. Perché la gente non ti diceva che ti ospitava gratis, volevano sempre qualcosa in cambio. No, erano magari diffidenti. E gli dai il sottopiatto? Dal sottopiatto. Poi perché erano chiusi anche i campeggi quando sono partita ancora. Quindi, per esempio, un campeggiatore mi ha aperto il campeggio e mi ci ha chiuso, lasciata a dormire io da sola in una vallata piena di lupi nell'Abruzzo, e lui se n'è andato via. Mi ha detto: tieni, questo è il mio numero, se ti succede perché, qualcosa, diciamo, io sono nella collina accanto, qua non c'è nessuno. Allo quindi... stato brado non si può dormire nel camper. Sì, sì, certo. Ah, si può. Ti fermavi una piazzola e dormivi come camionista. Era veramente brado come luogo. Ho preferito farmi chiudere in un campeggio deserto. Stavano facendo i lavori e poi mi hanno detto. Ma nessun curioso è venuto a bussare al tuo camper? Quelli che si impicciano a vedere chi c'era dentro? Sì. Chi? Vabbè, naturalmente quello al quale ho dato la bottiglia di vino, poi mi ha chiesto che cosa stessi facendo. Poi nelle piazzole dell'autogrill hanno chiesto cosa stessi facendo. Perché tu hai bisogno di attaccarti alla corrente per avere la luce, il minimo, il frigo che funzionasse, no? Sì, ma non sempre mi attaccavo alla luce. Perché sennò aveva la batteria. Aveva pannelli solari, inverter e batteria. Ah, beh, quindi diciamo, aveva anche fonti rinnovabili di energia. Sì. All the same, let it down, the same. Thank you. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Comunque ci sono un sacco di persone che hanno scelto di vivere in camper. Sì, sì, la vedono ogni tanto per strada. Tutta la vita o per vacanza? Tutta la vita. Per esempio, la donna dalla quale ho affittato il camper, ha preso il camper affittato in maniera privata. Lei mi ha affittato questo camper, in realtà vive in un altro camper e ha venduto 2 anni fa casa, tutto. E ha preso le poche cose essenziali, le ha messe a bordo di un camper, ne ha comprato un altro che affitta e vive così. Ah, con l'affitto di un camper ci si paga la vita. Ci si paga la vita e i viaggi con l'altro. E non c'ha più una casa dietro le spalle. E non ha più una casa, non ha più un negozio, non ha più nulla. Vabbè, questo però no, è come quelli che a un certo punto della loro vita vanno a dormire sotto i ponti o alle stazioni. Sono scelte un po' drastiche, non è che c'è sempre qualche motivo perché... È bello viaggiare, uno può viaggiare tutta la vita, ma rinunciare a una casa che è il punto massimo di arrivo delle aspirazioni della persona quando nasce, c'è una casa mia, per andare dentro un camper, cioè, poi gli anni passano, tu adesso sei una giovane fanciulla in fiore, ma quando sarai una signora ormai colpita dal climaterio, dall'artrite, da queste cose, non sarà bello stare dentro il camper, no? Lei l'ho vista felice però. Eh sì. L'ho vista convinta. Beh, grazie, deve salvare la faccia in qualche maniera. Ormai l'ha fatta. Che bello, c'ho un camper, se piove sto dentro, l'inverno sto nel camper, voglio farmi una bella doccia e uso la tinozza, cioè la tanica. Tu ti lavavi? E sì. Nel camper come ci si lava? Cioè, sarà una doccettina finita? C'è la doccettina. Poi insomma c'è stato un giorno in cui c'era stato un po' di problemi con la pompa dell'acqua. Allora avevo messo le bottiglie fuori a scaldare. Sì, non voglio pensare altre funzioni con le bottiglie fuori come facevi. Cioè c'è il bagno dentro il camper? Sì, sì, certo. C'è un bagno vero? Sì, sì, sì. Beh, chimico. Chimico. Il Candino non era proprio un camperino, era un bel camperone. Sì. Però c'è la cucina dove mangiavi? La cucina, cioè un salotto, cucina e un poi tutt'uno. Un letto. Letto quindi altezza soffitto. Ad altezza soffitto. E lì non ti sentivi soffocare? No, si dormiva benissimo. Poi quando pioveva, che appunto ha piovuto sempre. Ti fa rumore sulla ti testa. Ti fa tutto il rumorino sulla testa. Poi ho dormito sotto la tenda è anche peggio, devo dire. Però sai, quelle cose le puoi fare una volta nella vita. E poi dal camper, quando ho fatto il mio ultimo giorno appunto in camper, ho ricevuto un invito a salire e a proseguire il mio lavoro, il mio reportage a bordo di una barca che partiva da Roma quando io... Ah, e l'hai presa? E l'ho presa. Ah, quindi dal camper sei passata in barca? Sì. Siamo in barca? Sempre con questi bagagli qui, soliti, ho preso. Vabbè, più facile. Mi sono fatta portare a Fiumicino. Serve meno roba, esatto. In barca che ti serve. Da dove sei salita? Mi sono fatta portare a Fiumicino e dovevamo partire la notte, ma c'era mare. Beh, nel mare c'è mare di solito. No, c'era mare. C'è mare mosso. C'era mare molto mosso. Ah, sì. E quindi siamo partiti il mattino dopo. Quindi abbiamo... Chi eravate te, il marinaio poi? Il comandante, sì. E tre musiciste. E la barca si chiamava Onde Sonore. Quindi questo è un altro esperimento sociale. Era un altro esperimento sociale. Cioè, l'ha fatto il marinaio, si è beccato quattro ragazze, se le è messe a bordo, se le è portate al largo. Questo... Allora, lui dice di aver scritto, di aver fatto un bando per cercare musicisti di qualsiasi sesso ed età. È che nessuno e hanno risposto solo donne. Vabbè, chi è che ci va col marinaio, sta in mezzo alla barca al largo da solo? Come fanno i marinai, c'è anche una nota canzone che spiega il busillis di questa scelta. Qui ha trovato voi quattro fanciulle alla ricerca di un fidanzato, di un marito, siete salite su questa barca. Lo so, il luogo comune è orribile, ma è così o no? In realtà no. Scusa, sconfessa. In realtà erano... Cioè io ti provoco col luogo comune e tu dire no, come mai questo pensiero così retrogrado? Noi andavamo per un esperimento sociale. Andavamo per un esperimento sociale e artistico, sì. Ovvero appunto... Sì, ma tu sei musicista? No, però io ero la reporter. Ah. Io trasmettevo. E le musiciste che strumento suonavano? Radio Rock. Che strumento suonavano? E c'era Francesca Turchetti che suona la chitarra flamenca. Sì, certo, sulla sua barca la flamenca è il massimo. Con i tacchetti sul ponte. Che è una ragazza di 23 anni, è salita a bordo che aveva 23 anni, il giorno dopo era il suo compleanno, ne ha compiuti 24. Bello. Non tutte... conosceva nessuno. E io le ho comprato una torta agli ingredienti ai quali lei era allergica. Mi ero dimenticata cosa era lei? Al latte, mi ha preso una torta. Lattosio e... Torta di lattosio. E glutine e lattosio. Mi sei ritrovata. Vabbè, tu oggi il 99% delle persone hanno l'allergia al glutine e lattosio, quindi... Sì. Sì, ma però una cosa che esiste da 2 anni, prima non esisteva questa storia, glutine e lattosio. Comunque c'era lei, poi c'era la cantautrice Armaud, che era anche il vicecomandante, perché sarà appassionata alle questioni di navigazione. Quindi... Era stata promossa sul campo, quindi magari entrava nei porti. Che sapeva fare lei? E lei ha imparato subito a fare nodi, li faceva anche occhi chiusi dietro la schiena. Occhi chiusi tra la schiena, fa capire come faceva, scusa. Non lo so. Vabbè. Però ha imparato a fare. Vabbè, che sono pratiche, lei è il comandante. Lei ha detto: imparo a fare i nodi, imparo a mettere i paragordi, l'ancora. Quindi se ti catturano i pelle rossa e ti legano al palo della tortura e la notte sballano intorno, questa cosa qua prima di scotennarti. Tu, se sai questa pratica, quando c'hai le mani legate al palo della tortura, ti sciogli il nodo e scappi. Effettivamente. Ma solo questo serve, perché i nodi dietro la schiena non so che altro serve. Quando entravamo in porto, appunto, quindi c'era la cantautrice Armaud che andava in a prua e si faceva cogliere. Si faceva polena. Poi c'ero io che non suonavi. Non manca facevo, una, che ti non manca fa... una l'appello. E, una è una cantante invece jazz che si chiama Alessandra Della Porta e lei cantava. Lei cantava e il suo secondo ruolo era massaggiatrice sciazzo. E massaggiava il capitano. E massaggiava, ma il capitano si faceva poco massaggiare. Massaggiava voi? Sì, più noi. Beh, bello spettacolino, cioè una balla al flamenco, l'altra massaggia e la terza non ho capito che faceva, non ricordo, comunque. Cantautrice, abbiamo fatto i concerti nei porti, Ma suonava solo una la chitarra? No, suonavano tutte e tre, ognuna aveva il proprio, ognuna aveva e il tipo, proprio. E non mi hai detto gli strumenti, chitarra? Chitarra, la cantautrice suona la chitarra e flamenco. La... E invece la cantante jazz canta. Ah, ma bello, chitarra. Sì. E andate nel porto, facciate uno spettacolino. Sì. E come facciate? Signore, signore, arrivate le tre sirene, così? Ma in realtà lo dicevamo sui social, oppure... Ah, tutto sui social. Oppure avvertivamo qualcuno a terra, qualche musicista che poi magari saliva. Ah, quindi era un altro esperimento sociale sì. Interessante. Noi eravamo sempre molto contente quando saliva un musicista maschio a bordo, perché c'era, almeno compensavamo il... Quindi mi confermi a me quel terribile e schifoso luogo comune che ho provato a accennare. Lo scopo era, diciamo, un compagno per la vita. Ma in realtà erano tutte fidanzate, erano praticamente tutte fidanzate, quindi no. Cioè, contenti, fidanzati, erano, dove stanno i fidanzati? I fidanzati seguivano sui social le avventure. Bello. Poi rimandavamo sempre il ritorno, quindi c'erano questi fidanzati sempre più rassegnati, sì, c'era chi doveva scendere prima, chi doveva scendere alle Olie e tornare a casa, in realtà poi tutti abbiamo proseguito fino a Palermo. Diciamo malamente frenzonati tutti e tre, perché mi sembra che no. Tornavano, nulla era più come prima. Oddio, non so, stiamo tornando adesso, quindi dovremo sentire ancora, racconti. Ancora non avete sperimentato? Ancora, dobbiamo sentire racconti del rientro delle altre. Cioè tu scappavi e le altre invece hanno lasciato a casa il bottino, così, sì. Tranquille. Sì. Beh, è stata interessante questa fase. Sì, che fine ha fatto il marinaio? Per questo mi interessa. Lui è rimasto a Palermo e continua, adesso starà un po' qua. Cioè vi ha salutato dal ponte della sua barca? Ci ha salutato dal ponte della sua barca, ha detto che siamo stati il miglior equipaggio che abbia mai avuto. Ma scusa, una volta non c'era questa cosa che le donne portano sfiga a bordo e non sta a casa? No, non lo so. Non è, invece abbiamo, no, so, invece io. Siamo state... Pirati dei Caraibi. Invece diciamo. Siamo state bravissime, le abbiamo cucinato, abbiamo aiutato nelle manovre. Almeno con una mano dovete darla, sennò che facevate. Esatto. E quindi ci ha salutato, lui è rimasto a Palermo. Oggi penso che sia salpato per un giro, credo, solitario per la Sicilia. Non lo so, non cioè, so. Cioè respira un po'. Respira un po'. Un po' di fiato. Sì. Non so quale sarà il suo destino. E voi manterrete rapporti fra voi ragazze, così, cioè, è bella questa avventura. Ma che avventura è? State lì su una barca, scendevate, suonavate, ripartivate. E registravamo i brani tutti i giorni, abbiamo fatto anche un album. Sì, ma dal punto di vista della relazione, che in fondo era lo scopo dell'esperimento sociale, era una verifica se la relazione indiretta in realtà presentava solo un aspetto parziale, quella che era la relazione nella sua accezione totale, cioè anche con conoscenza sensoriale. Diciamo, il dato scientifico di questo esperimento sociale qual è? Il dato scientifico di questo esperimento sociale è che è meglio fare un'avventura del genere con persone che non conosci rispetto a persone che conosci. Beh, certo, andare in barca con gli amici si litiga, anche con i fidanzati, fidanzate. Esatto. La maniera per scannarsi. Esatto. Come le vacanze, d'altronde. Le vacanze è il luogo di rottura di ogni relazione. Per esempio, io non ero mai stata in compagnia, non avevo mai fatto una vacanza di gruppo con gli amici, io non avevo mai fatto... Una volta no. Mi ha raccontato storie di Stromboli, cose del genere. Ma io ero là da sola. No, c'erano tanti amici, mi ha raccontato. Ma no, c'erano delle persone nell'isola, ma io ero lì da sola. Non ho mai fatto i villaggi vacanze o i camping dei bambini. Questa è l'antitesi, il villaggio vacanze è l'antitesi rispetto a quello che fa. Esatto, oppure anche soltanto il campeggio con gli amici, insomma non avevo mai fatto nulla del genere. E quindi è stata la prima volta. Di vacanzine col fidanzato da sole, questa era le tue. Sì, ma manco nemmeno col fidanzato. Sì, le vacanze sole. Col fidanzato, me le sì, raccontate. Sono sempre finite malissimo. E beh, alla maniera, una volta che hai capito che in vacanza ci si lascia, ho pensato di partire una volta lasciato. Pensavo che sarei stata a disagio, che mi sarei sentita mancare gli spazi, o che pensavo che sarei stata antipatica anche con gli altri. Cosa è stato, un mese? E 10 giorni di navigazione abbiamo fatto. Vabbè, 10 giorni dai, sopportano. E invece sono andati molto bene. Billy, he's down by the railroad track, sitting low in the back seat of his car. Diamond jacket, she's so intact, and she falls so softly beneath him. Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Baby, don't walk it on. Fish lady, oh fish lady, she bakes them tenement walls. She won't take corner boys. They got no money, and they're so. I said, hey, babe, I'm easy, won't you take my hand, walk with me down Broadway? Oh, mama, take my arm and move with me down Broadway, yeah. I'm a young man, I talk a real loud, yeah, babe, walk a real proud for you. So shake it away, so shake away street life, shake away the city life, and hook up to the train. I'll hook up to the night train. Hook it up, hook up to the, hook up to the train. But I know she won't touch the train. No, she won't take the train. No, she won't take the train. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Adesso che ti sei lasciata dietro le spalle questo bel esperimento sociale, e c'è davanti ancora una fetta di estate consistente, cosa pensi che farai? Quale sarà lo scopo della tua vita? Non hai conosciuto nessuno che ti va di rivedere? Non c'è nel tuo cuoricino palpitante un'immagine che fatica ad andarsene rispetto alle altre che hai sovrapposto una sull'altra? Sì. Sì, è così. Sì, sì, vostro onore. Oh, perfetto. Quindi questo fortunato uomo, dammene le caratteristiche, senza naturalmente identificarlo, visto che ormai ti conosco. Come si costituisce? Cos'è, un musicista anche lui? No. Questa volta che si è andata a prendere. No. Senza entrare nel particolare poi lo identifichi, diciamo terziario, pensatore, pensatore. Cioè non fa un cazzo, pensa. Cioè, ecco, quella volta hai scelto. Facciamo... Ma a me ti piaccia, che ne so, un commercialista, un avvocato, un ingegnere. No. Sempre... Mi piacciono quelli che scappano. Quelli che hanno. Sì, ma che scappano anche i commercialisti, gli avvocati e gli ingegneri, sai, tutti scappano. Cerchi persone, cioè prive di mezzi di sostentamento propri, capito? Questa è la cosa grave, con delle, diciamo, con delle visioni della vita molto poetiche e divertenti, ma il tuo cuoricino vuol palpitare assieme a una persona, questo anche in qualche maniera dovete mettere su qualcosa che assomiglia a una casa, una vita in comune, a un mangiare che non sia soltanto la scatoletta delle lenticchie e dei fagioli. No, scusa, mi dà questa impressione. È il fondamento base se tu cerchi l'uomo della vita, che alla fine un pochino, mica tanto, perché oggi siamo un momento, ma un pochino deve anche contribuire quelle basse esigenze che sono mangiare, bere, avere un tetto, avere cure mediche, queste cose qua, no, non trovi, no. Certo, se ogni volta in treno incontro te, no, io ti do, magari ti do degli elementi, ti do degli elementi di riflessione, capito? Ma hai trovato un altro senza arte né parte, diciamo la verità, ancora peggio, che il musicista tanto tanto va col piattino per strada, suona qualcosina, porta a casa, questo se pensa non fa niente praticamente, è un filosofo, un intellettuale, non riveleremo l'identità, no, ma si alza la mattina, cosa fa? Ecco, diciamo così, mediamente quando si alza la mattina qual è l'impegno della sua giornata? Innaffiare un fiore? No, no. Recitare un mantra? Non ne voglio parlare. Fare il saluto al sole? No, no, di queste cose dimmi quali sono fare, date fare, il, sal- fare il saluto al, è il saluto, dai, al sole, il caffè, dai, si, fa il caffè. Caffè. Che comunque è già qualcosa, si è già qualcosa lì, sa, mette su una caffettiera sul fuoco, sì. Esatto, Poi apre la finestra, fa il saluto al sole, esatto, e questo lo fa, dai, il saluto al sole ci sta, non è vero, non fa il saluto al sole. E cosa fa? Fa un cose del genere, un mantra è questo, un mantra, no, non lo so, non lo conosco ancora abbastanza per sapere tutti questi dettagli sulla sua vita. Quanto tempo è passato vicino a lui? Mai. Ma questo si può dire, questo non identifica nessuno, un giorno, due giorni, una settimana, un mese, qualche giorno. Quindi avete avuto modo di conoscere, certo, nel clima delle vacanze spensierato così una persona non è mai se stessa. L'aspetto vero, quello pesante, quello fastidioso, quello che crea una frattura lancinante, lo vedi poi nel quotidiano, quindi ancora dovete passare questa fase della distruzione. Ma sì, ma insomma. Ma non perché non. Ma magari c'è qualcuno di nuovo, dai. Ma perché? Hai già cambiato? Ho già cambiato idea. Sì, adesso mi sta prendendo in giro. Sì. Non dai più soddisfazione. Una volta aveva una funzione di servizio incontrarti in treno, perché davi delle importanti letture di quella che è la difficoltà delle relazioni ad altri tuoi coetanei, che ne facevano tesoro. Questa volta non aiuti le tue sorelle, scusa. Sintetizza in una massima di vita almeno questa esperienza, questo esperimento sociale, che alla fine è confluito nella conoscenza di un nuovo ragazzo da frequentare. Si ricadono sempre negli stessi errori. Stavo meglio da sola in camper con le lenticchie. Quindi è già bruciato. È già bruciato. Sì. Cioè, è una illusione, lascia perdere, non lo vedere manco più. Sì. Avresti quella sgradevole sensazione di una persona pesante di cui non ti sei accorta, capito? Quindi? E quindi ho deciso di stare da sola. E adesso, in questi 5 minuti che parlavi con me? No, non è vero. Dai, da tutto il viaggio. Cioè, ti ho convinto che è giusto questa persona. Quindi stavi andando a trovarlo? No, io sto tornando a casa. E beh, magari lui che ti aspetta lì. No, lui con non la scatola con i cioccolati. Ma quali cioccolati? Con Ferrero Rocher. Ma quali Ferrero Rocher? Sotto casa. Sbagliati. No. No. Ah, quindi non fa regali? Non lo so, è una persona che non conosco. Non ti ha mai regalato nulla? Non... Ma avete mangiato assieme qualche volta? Sì o no? Sì. Chi pagava? E lui. No, sto pensando. Ma perché non è che non sono tante le volte. T'ha detto che... facciamo alla romana? No, per carità. No, beh, ci stava comunque. Sì, sì, no. Cioè, conoscendo il tuo standard ci no, stava. No, per carità, no. Su quello ho deciso. No, non ho più. Deciso non più. Poi, non più, ho deciso cioè, non quello più. Quello ti regala l'anello di legno, mi ricordo ancora, cioè mica per niente. No, su quello ho deciso non più. Non paga più. Paga quando si esce, paga sempre lui. Ah, e io però mi occupo di fare la spesa, mi questa occupo è una buona di tutte le altre cose. Io mi occupo della casa, poi quando usciamo però voglio. Ah, quindi fate già, diciamo, l'esperimento sociale della vita di coppia. No, questo è in generale, poi verrà applicato se mai incontrerò qualcuno che adesso non esiste e che probabilmente non esisterà. Cioè, tu già ti sei messa nel ruolo di casalinga che fai la spesa, cucina. No, io lavoro, però in cucina poi ci sto io, non ci devi stare tu. Ma perché che storia? Perché è il mio canale di espressione. È un pregiudizio di genere però, no, di discriminazione. Io non sono mai stata femminista. Giustamente. E poi è un mio canale di espressione la cucina, quindi non me lo puoi togliere. Ma non puoi farlo il canale di espressione, scusa. Vabbè, e qual era il canale? No, solo per questo, qual era il canale di espressione di questo fortunato ragazzo che già tu hai accannato? Non si fa illusione, no, è giusto, no? Ma sta lì aspettati con Ferrero Rocher, con i fiorellini, e me lo sa che è inutile. Cioè, lo troveremo legato sulle rotaie del treno. Esatto, prima di sul treno. Se a senti... Roma Termini. Certo, a Roma Termini diranno. A Tiburtina il treno ha avuto un incidente, c'era il tuo fidanzato, trovano una scatola di Ferrero Rocher, un mazzo di fiori, un poveretto, Oddio, steso sulle rotaie. Speriamo di no. L'estate come la passi, quindi? Adesso mi metterò a cercare un lavoro a Roma. Certo, è il mese giusto. Per avere qualcosa per fare il prossimo viaggio. Fare la bagnina. Cameriera. Bagnina nei barconi sul Tevere, che ne so. Bagnina, cameriera o cat sitter, non lo so. Non sei più la bambina che deve fare i soldini per l'estate. Ormai vai per quanto? Per i 25 anni? Per i 30. Per i 30? Per i 31, per i 32 anni. E guarda che è un bel salto i 30 anni. Sì. Il prossimo salto è quello proprio del discrimine totale. Lasci la bambina che era in te e entri nel mondo delle donne mature. Questo succede quando appunto incontri un uomo e fai... Quindi tu hai un tempo utile per fare il figlio di 5-6 anni. Sì. Se non vuoi essere primi paratteri. Quello ed emanciparmi economicamente. Ma le due cose possono convergere, scusa. Esatto. Trovi uno magari che ti mantiene. Che noia, voglio, a me piace lavorare. No, ma puoi lavorare sempre, però puoi fare dei lavori come questo che ti piace a te, che ne so, di fare esperimenti sociali senza bisogno di pensare che ti deve mantenere, no? Scusa. Ma lui mi manderà a fare gli esperimenti sociali da sola? Perché vuoi anche l'uomo dispotico e geloso? No. No, assolutamente certo, no. Certo, ci manda, figurati. Occasione migliore per starsene un po' solo e sollazzarsi con le tue amiche. Ti manda a fare esperimento sociale. Stai via un mese, tranquilla, ti vede sui social, vede che stai lì parcheggiata nel lungomare, nel lungolago, nelle piazzole dell'autostrada. E lui intanto con le mie migliori amiche. Certo, con le tue migliori amiche se ne stanno a Roma tranquille. È questo il futuro che voglio. Lo so, Margherita, mi dispiace di darti queste crude lezioni di vita, ma... Sei tu che me lo chiedi indirettamente e io, anche se mi costa, fa male più a me che a te, credimi, ti do questa lezione di vita. Buon viaggio, cara, buon arrivo e buona partenza. Speriamo che non ci sia nessuno sotto i binari. No, ci vediamo so. Alla prossima. Ciao. Ciao. Deep in stars, shine on the farthest star, make me dream on. Don't wanna go home. Ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo iltrenova@radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.